Dal 5 al 7 dicembre saremo a Bologna, 2 giorni alla casa di quartiere Giorgio Costa e l'ultimo giorno alla BA in vicolo Bolognetti, quindi una novità rispetto agli anni scorsi. Anche quest'anno presenteremo le nuove videoinchieste di Libera Bologna che saranno al centro del programma, in particolare saranno il proseguo della videoinchiesta La febbre del cibo, che quest'anno racconterà alcune espansioni societarie e soprattutto un tema centrale come quello del lavoro sfruttato e non solo. E un'altra inchiesta invece su un'area fuori da Bologna, lo Junior Club di Rastignano. Un programma che, come sempre, cercherà di approfondire quelli che sono i linguaggi per raccontare mafie e criminalità sul territorio, con incontri, panel, formazioni nelle scuole, con cui verranno proiettate sempre le videoinchieste, incontri che parleranno di come fare inchiesta e di come cercare di cambiare i territori. Le inchieste precedenti, insomma, hanno suscitato anche, come dire, molto clamore a Bologna e poi sono scaturite anche in inchieste giudiziarie. Le istituzioni prestano più attenzione ora? Mi sembra che prestino più attenzione, soprattutto quando il dibattito pubblico e mediatico si alza. Non sempre è successo dopo le inchieste, nell'ultimo anno per fortuna sì, anche grazie alle ultime 3 inchieste che da maggio in poi hanno colpito il settore della ristorazione bolognese, in particolare le operazioni contro Gaetano Vitolo, contro Saverio Giampà e contro Omar Mohamed, l'ultima. Per cui quando qualcosa si muove, di conseguenza si muove anche la rete e c'è la speranza che poi le cose migliorino. Libera porta avanti il monitoraggio civico. Quanto è importante che anche i cittadini prestino attenzione ai segnali sul territorio? I segnali ci sono, ma non sempre ci sono le capacità per coglierli su tutti i livelli. Noi crediamo che non siano sempre i cittadini, la cittadinanza, a dover saper cogliere determinati segnali, a dover scegliere in che posti andare, quanto più le istituzioni a saper mettere in campo strumenti che possano in qualche modo monitorare quello che avviene sulla città, sul territorio e creare di conseguenza mezzi, protocolli per fare in modo che appunto l'infiltrazione mafiosa o criminale o anche solo quelle che vengono considerate opacità possono essere controllate o bloccate. Altri appuntamenti all'interno del festival? Inizieremo parlando di come raccontare i cambiamenti climatici, anzi gli effetti dei cambiamenti climatici, un tema che ci sembrava particolarmente attuale, legato per quanto ci riguarda anche al tema della giustizia sociale e ambientale. Parleremo di lavoro sfruttato, di lavoro povero, di quanto sempre di più non siano solo le mafie a far leva su quello che viene definito lo stato di bisogno, e ne parleremo con Alessandro Saebi, Francesca Zappalà e Francesca Berardi. E poi il sabato un programma che coinvolgerà il premio per il giornalismo investigativo Roberto Morrione. Con la BA parleremo di inchieste militanti insieme anche a un altro collettivo, il Centro di Giornalismo Permanente, per capire appunto come a livello collettivo poter fare inchiesta sociale e giornalistica. Chiuderemo con un dialogo con la criminologa Anna Sergi per capire com'è cambiata l'Ndrangheta, per poi lasciare spazio il sabato sera alla musica.